Heinz domandò: Pagate l'affitto per questa torre? 12 sterline, disse Buck Mulligan. Al ministro della guerra, aggiunse Stephen voltando la testa. Si fermarono mentre Heinz contemplava la torre, finché disse: Piuttosto desolata d'inverno, direi. Martello, la chiamate? Le ha fatte costruire Billy Pitt, disse Buck Mulligan, quando i francesi correvano il mare. Ma la nostra è l'Omphalos. Qual è la sua idea di Amleto? Domandò Heinz a Stephen. No, no, gridò Buck Mulligan dolorante. Non sono all'altezza di Tommaso d'Aquino e delle 55 ragioni che ha inventato per sostenerla. Aspetti che mi sia messo qualche pinta in corpo. E si voltò verso Stephen dicendo, mentre si tirava giù con cura le punte del panciotto color primula. Non ce la faresti con meno di tre pinte, vero, Kinch? Aspettato tanto, disse Steven noncurante. Che può aspettare ancora? Lei stuzzica la mia curiosità, disse amabilmente Heinz. Si tratta di un paradosso. Puah, disse Buck Mulligan. Ci siamo svezzati da Wilde e dai paradossi. È semplicissimo. Dimostra con l'algebra che il nipote di Amleto è nonno di Shakespeare. E che lui stesso è il fantasma di suo padre. Cosa? Disse Heinz abbozzando un cenno verso Steven. Lui stesso? Buck Mulligan si buttò l'asciugamano attorno al collo a mo' di stola e, piegandosi in un'aperta risata, disse all'orecchio di Steven: Oh, ombra di Kinch il vecchio! Japhet in cerca di un padre! Al mattino siamo sempre stanchi, disse Steven Heinz. Ed è un discorso un po' lungo. Buck Mulligan, tornando ad avviarsi, alzò le mani. Solo la sacra pinta può sciogliere la lingua di Daedalus, disse. Voglio dire, spiegò Heinz a Steven mentre si rincamminavano, che questa torre e questa scogliera mi ricordano un po' Elsinore, che strapiomba sulla sua base nel mare. Non è vero? Buck Mulligan si voltò repentinamente per un attimo verso Steven. Ma non parlò. In quello splendido attimo di silenzio, Steven vide la propria immagine in misere, polverose gramaglie tra i loro vestiti vivaci. È una storia meravigliosa, disse Heinz facendoli fermare un'altra volta. Occhi, pallidi come il mare che il vento aveva rinfrescato, più pallidi, fermi e prudenti. Signore dei mari, guardava a sud attraverso la baia. Vuota con solo il pennacchio di fumo del postale vago sulla linea luminosa dell'orizzonte e una vela che bordeggiava dinanzi ai Maglins. Ne ho letto in qualche posto un'interpretazione teologica, disse meditabondo. L'idea del padre e del figlio, il figlio che tenta di riconciliarsi col padre. Immediatamente Buck Mulligan assunse un volto lieto dal largo sorriso. Li guardò. La ben modellata bocca aperta giovialmente, gli occhi dai quali aveva fatto scomparire a un tratto ogni accento di furbizia, ammiccanti di folle gaiezza. Ciondolava in qua e in là una testa da pupazzo, con la tesa del Panama che palpitava, e cominciò a salmodiare con voce quieta, beata, sciocca. Sono il più gran fenomeno di cui si sia mai detto. Oh, per mamma un'ebrea, per babbo un uccelletto, per Beppe il falegname son di parer contrario, perciò beviamo a tutti, discepoli e calvario. Alzò un indice ammonitore. A chi non crede ancora nell'esser mio divino, non darò a bere gratis quando farò del vino, ma dovrà bere l'acqua, e chiaro gli sarà che faccio quando il vino in acqua tornerà. Dette un vispo colpetto di commiato al bastone di Steven e, correndo verso un ciglio della scogliera, sventolò le mani sui fianchi a mo' di pinne o ali di chi stia per alzarsi a volo e salmodiò: Addio, cari, scrivete quello che ho raccontato e dite a Tizio e a Caio che son risuscitato. Data la mia ascendenza, certo volerò anch'io e sul Monte Oliveto c'è vento. Addio, addio! Saltabeccò davanti a loro giù verso il balzo dei 40 piedi, sventolando le mani come ali, con agili salti, il petaso di mercurio palpitante nella fresca brezza che portava loro grida dolci inguettanti. Heinz, che aveva cautamente riso, sempre camminando accanto a Steven, gli disse: «Non dovremmo ridere, forse. È piuttosto blasfemo. Non che io sia credente, intendiamoci. E poi, in ogni caso, la sua allegria toglie alla cosa ogni malizia, vero? Come l'ha chiamato? Beppe il falegname. La ballata di Gesù Giullare», rispose Steven. «Oh», disse Heinz, «l'aveva sentita altre volte?» «Tre volte al giorno dopo i pasti», rispose seccamente Steven. «Lei non è credente, vero?» domandò Heinz. «Voglio dire, credente nel senso ristretto del termine, la creazione dal nulla e i miracoli e un Dio personale. La parola ha un solo senso, mi sembra», disse Steven. Heinz si fermò per tirar fuori un lucido astuccio d'argento su cui brillava una pietra verde. Fece scattare la molla con il pollice e lo porse. «Grazie», disse Steven prendendo una sigaretta. Servitosi, Heinz ne riabbatté il coperchio, lo rinfilò nella tasca laterale ed estrasse dal taschino del panciotto un acciarino di nickel. Fece scattare anche questo e, dopo aver acceso la sua sigaretta, tese a Steven l'esca fiammeggiante nella conchiglia delle mani. «Sì, certo», disse mentre proseguivano. «O si crede o non si crede, vero? Personalmente non potrei mandar giù quell'idea di un Dio personale. Lei non l'accetta, immagino. Lei contempla in me», disse Steven con un ostico disgusto, «un orribile esempio di libero pensiero». Seguitò a camminare, aspettando che gli si rivolgesse la parola e trascinandosi dietro il bastone. Il puntale lo seguiva leggermente sul sentiero, squittendogli alle calcagna. «Il mio spirito familiare dietro di me, che chiama Steven». Una linea ondulata lungo il sentiero. «Ci cammineranno sopra stasera, venendo qui al buio. Vuole quella chiave. È mia. Ho pagato io l'affitto. E ora mangio il suo pane che sa di sale. Dagli anche la chiave. Tutto. La chiederà». Questo era nei suoi occhi. «Dopotutto», cominciò Heinz. Steven si voltò e vide che il freddo sguardo che lo aveva misurato non era del tutto malevolo. «Dopotutto, direi che si è sempre in grado di liberarsi. Si è padroni di se stessi, mi pare». «Sono servo di due padroni», disse Steven. «Un inglese e una italiana». «Italiana?» disse Heinz. «Una babilonica sovrana vecchia e gelosa. Inginocchiati davanti a me». «E ce n'è un terzo», disse Steven, «che mi vuole per lavori spiccioli». «Italiana», ripeté Heinz. «Ma che vuol dire?» «Il governo imperiale britannico», rispose Steven accendendosi in volto, «e la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana». Prima di parlare, Heinz si staccò dal labbro inferiore qualche filo di tabacco. «Capisco perfettamente», disse calmo. «Un irlandese deve pensarla così, direi. Noi in Inghilterra sentiamo di avervi trattato piuttosto ingiustamente. Parrebbe che la colpa sia della storia». Gli alteri, possenti attributi fecero rimbombare nella memoria di Steven il trionfo delle loro bronzee campane. «Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam». Il lento evolversi e mutare del rito e del dogma, simili ai suoi peregrini pensieri, alchimia di stelle. Simbolo degli apostoli nella messa di Papa Marcello. Le voci fuse, ciascuna cantando forte nell'asserzione. E dietro il loro cantico, l'angelo di scolta della Chiesa militante disarmava e minacciava gli eresiarchi. Una torma di eresia in fuga con le mitri a sghimbescio. Fozio e la genia di schernitori, uno dei quali era Maligan. E Ario, che aveva battagliato tutta la vita sulla consustanzialità del figlio col padre, e Valentino che spregiava il corpo terreno del Cristo, e il sottile eresiarca africano Sabellio, che sosteneva che il padre era figlio di se stesso. Parole che Mulligan aveva detto un minuto prima per canzonatura all'estraneo. Vana canzonatura. Il vuoto incombe certamente su tutti quelli che tessono il vento. Minacciati, disarmati, sconfitti dagli angeli della chiesa schierati in battaglia. L'oste armata di Michele, che la difende sempre nell'ora del conflitto con lanci o sberchi. Bene, bravo! Applausi prolungati. Zit, nom de Dieu. Naturalmente sono un britanno, disse la voce di Heinz, e sento da britanno, e non voglio neanche vedere il mio paese cadere in mano di ebrei tedeschi. Attualmente è questo il nostro problema nazionale, temo. Due uomini ritti sull'orlo della scogliera guardavano intenti. Uomo d'affari, barcaiolo. È diretta verso Ballo Carbor. Il barcaiolo accennò verso il nord della baia con una certa degnazione. Son cinque tese laggiù, disse. Sarà trascinato da quella parte quando salirà la marea verso l'una. Sono 9 giorni oggi. L'uomo che era annegato. Una vela virava nella baia vuota in attesa che un gonfio fagotto venisse a galla. Rivoltolasse al sole un volto tumefatto, bianco salino. Eccomi. Scesero lungo il sentiero serpeggiante fino alla caletta. Buck Mulligan era ritto su un masso in maniche di camicia, la cravatta senza fermaglio sventolante su una spalla. Un giovanotto, aggrappato a uno sprone roccioso vicino a lui, muoveva lentamente, a guisa di rana, le gambe verdi nella fonda gelatina dell'acqua. Tuo fratello è con te, Malachi? È giù a Weymouth, coi Bannon. Ancora là? Ho avuto una cartolina da Bannon. Dice che ha trovato una piccola dolce pupetta laggiù. Ragazza da foto, la chiama lui. Istantanea, Posa breve. Buck Mulligan si sedette per slacciarsi le scarpe. Un uomo anziano cacciò fuori dallo sperone della roccia un viso rosso ansimante. Arrancò su per le pietre, con l'acqua che gli brillava sulla zucca e sulla ghirlanda di capelli grigi, acqua ruscellante sul petto e sul pancione e sgorgante a fiotti dal pendulo nero cingilombi. Buck Mulligan si scostò per lasciare che si arrampicasse e, con un'occhiata a Heinz e Steven, si fece piamente il segno di croce con l'unghia del pollice sulla fronte e sulle labbra e sullo sterno. «Seymour è tornato in città», disse il giovane riafferrando il suo sperone di roccia. «Ha piantato la medicina e si dà la carriera militare». «Oh, va con Dio», disse Buck Mulligan. «Parte la settimana prossima per fare la sgobbata. Conosci quella rossa di Carlisle, Lily?» «Sì». «Filava con lui ieri sera sul molo. Il padre è fradicio di soldi». «Si è fatta inguaiare?» «Bisognerebbe domandarlo a Seymour». «Seymour, fottuto ufficiale», disse Buck Mulligan. Annuì a se stesso mentre si sfilava i pantaloni e, alzandosi in piedi, diceva l'adagio: «Le rosse di pelo cozzano come capre». Si interruppe spaventato, palpandosi un fianco sotto la camicia svolazzante. «La mia 12ª costola è scomparsa!» gridò. «Sono l'Übermensch! Kinch lo sdentato e io! I superuomini!» Si districò dalla camicia e se la gettò dietro le spalle, dove si ammucchiavano i suoi vestiti. «Ti butti qui, Malachi?» «Sì, fai posto nel letto!» Il giovane si spinse a ritroso nell'acqua e arrivò in mezzo alla caletta con due magistrali bracciati. Heinz si sedette su una pietra a fumare. «Lei non si butta?» domandò Buck Mulligan. «Più tardi», disse Heinz. «Non subito dopo colazione». Steven si volse per incamminarsi. «Io me ne vado, Mulligan», disse. «Dacci quella chiave, Kinch», disse Buck Mulligan. «Per tenere distesa la camicia». Steven gli porse la chiave. Buck Mulligan la posò di traverso sul mucchio dei vestiti. «E 2 pence», disse, «per una pinta. Buttali lì». Steven buttò 2 monete sul soffice mucchio. Vestirsi, svestirsi. Buck Mulligan, eretto con le mani giunte davanti a sé, disse solennemente: «Chi ruba al povero presta al Signore». Così parlò Zarathustra. Il suo corpo paffuto si tuffò. «Ci rivedremo», disse Heinz voltandosi e sorridendo dai pazzi irlandesi, mentre Steven risaliva il sentiero. Corno del toro, zoccolo del cavallo, sorriso del sassone. «Al ship!» urlò Buck Mulligan. «Mezzogiorno e mezzo!» «Bene!» disse Steven. Si incamminò per l'erta del sentiero zigzagante. «Liliata rutilantium turma circumdet, jubilantium te virginum!» L'aureola grigia del prete nella nicchia, dove si rivestiva pudicamente. «Non dormirò qui stanotte. Neanche a casa posso andare.» Una voce, dolce, canora e tenuta, lo chiamò dal mare. Alla svolta egli sventolò la mano. Quella chiamò ancora. Una testa bruna, liscia, di foca, a largo sul mare, tonda. «Usurpato!»